avvenne, in quel periodo, il ritorno ignominioso di Antioco dalle regioni della Persia. Infatti, egli era giunto nella città chiamata Persepoli e si era accinto a depredare il tempio e ad impadronirsi della piazza, ma i cittadini ricorsero in massa alle armi e lo ricacciarono. Perciò Antioco, messo in fuga dagli abitanti, dovette ritirarsi vergognosamente. Mentre si trovava presso Ecbatana, gli giunsero le notizie su ciò che era accaduto a Nicanore e agli uomini di Timoteo. Montato in grande furore, pensava di sfogarsi sui giudei anche per lo smacco inflittogli da coloro che lo avevano messo in fuga. Perciò diede ordine al cocchiere di compiere il viaggio, spingendo i cavalli senza sosta, ma incombeva ormai su di lui il giudizio del cielo. Così diceva nella sua superbia: «Farò di Gerusalemme un cimitero di giudei appena vi sarò giunto». Ma il Signore che tutto vede, il Dio di Israele, lo colpì con piaga insanabile e invisibile. Aveva appena terminato quella frase quando lo colpì un insopportabile dolore alle viscere e terribili spasimi intestinali, ben meritati da colui che aveva straziato le viscere altrui con molti e strani generi di tormenti. Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi, pieno ancora di superbia, spirava il fuoco della sua collera contro i giudei e comandava di accelerare la corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo. Colui che poco prima pensava di comandare ai flutti del mare, arrogandosi di essere un superuomo e di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora, gettato a terra, doveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio, a tal punto che nel corpo di quell'empio si formavano i vermi e, mentre era ancora vivo, le sue carni fra spasimi e dolori cadevano a brandelli e l'esercito era tutto nauseato dal fetore e dal marciume di lui. Colui che poco prima credeva di toccare gli astri del cielo, ora nessuno poteva sopportarlo per l'intollerabile intensità del fetore. Allora, finalmente, malconcio a quel modo, incominciò ad abbassare il colmo della sua superbia e ad avviarsi al ravvedimento per effetto del divino flagello, mentre ad ogni istante era lacerato dai dolori. Non potendo più sopportare il suo proprio fetore, disse: «È giusto sottomettersi a Dio e non pensare di essere uguale a Dio quando si è mortali». Quell'empio si mise a pregare quel Signore che ormai non avrebbe più avuto misericordia di lui e diceva che avrebbe dichiarato libera la città santa che prima si affrettava a raggiungere per raderla al suolo e farne un cimitero, che avrebbe reso pari agli ateniesi tutti i giudei che prima aveva stabilito di non degnare neppure della sepoltura, ma di gettare in pasto alle fiere insieme con i loro bambini, che avrebbe adornato con magnifici doni votivi il sacro tempio che prima aveva saccheggiato e avrebbe restituito in maggior numero tutti gli arredi sacri e avrebbe provveduto con le proprie entrate ai contributi fissati per i sacrifici. Inoltre, che si sarebbe fatto giudeo e si sarebbe recato in ogni luogo abitato per annunciare la potenza di Dio. Ma poiché i dolori non diminuivano per nulla, era arrivato infatti su di lui il giusto giudizio di Dio, e disperando ormai di sé, scrisse ai giudei la lettera che riportiamo qui sotto, nello stile di una supplica così concepita. Ai giudei, ottimi cittadini, il re e condottiero Antioco augura magnifica salute, benessere e prosperità. Se voi state bene e i figli e le vostre cose procedono secondo il vostro pensiero, io, riponendo le mie speranze nel cielo, mi ricordo con tenerezza del vostro onore e della vostra benevolenza. Ritornando dalle province della Persia, e trovandomi colpito da una malattia insopportabile, ho creduto necessario pensare alla comune sicurezza di tutti. Pur non disperando del mio stato, ma avendo molta fiducia di poter scampare dalla malattia e considerando d'altra parte che anche mio padre, quando aveva intrapreso spedizioni nelle province settentrionali, aveva indicato il successore, perché se accadesse qualche cosa di inaspettato o si diffondesse la notizia di qualche grave incidente, gli abitanti del paese, sapendo in mano a chi era stato lasciato il governo, non si agitassero. E oltre a questo, constatando che i sovrani vicini e confinanti con il nostro regno spiano il momento opportuno e attendono gli eventi, ho designato come re mio figlio Antioco, che già più volte, quando intraprendevo i viaggi nei distretti settentrionali, ho raccomandato e affidato a moltissimi di voi. A lui indirizzo la lettera qui unita. Vi prego dunque e vi scongiuro di ricordarvi dei benefici ricevuti pubblicamente o privatamente, e prego ciascuno di conservare la vostra benevolenza verso di me e mio figlio. Ho fiducia che egli si comporterà con voi con moderazione e umanità, secondo le mie direttive. Questo omicida e bestemmiatore dunque, soffrendo crudeli tormenti come li aveva fatti subire agli altri, finì così la sua vita in terra straniera, in una zona montuosa, con una sorte misera. Curò il trasporto della salma Filippo, cresciuto insieme a lui, il quale poi, diffidando del figlio di Antioco, si recò in Egitto presso Tolomeo Filometore.